Essere e benessere di Nicoletta Carbone. Io esco, ho un colloquio di lavoro molto promettente, il che spiega la mia insolita eleganza. Fatemi gli auguri, ciao. Auguri, strana le tigre. Contaci, grazie. Ho il vestito fortunato. Allora, provi a descriversi, signor Dupré. Sono un gran compagnone. Sì, sono molto socievole e per me è cosa fondamentale godermi la vita. Non sono un decisionista e neanche uno stacanovista. Se cercate un cavallo da tiro, forse non sono l'uomo che fa per voi, perché io non vivo per lavorare, seguo l'altra filosofia, lavoro per vivere. Ah, a proposito, festeggiate di solito il Columbus Day? Noi lavoriamo. Davvero? Beh, ci abbiamo provato, via. Buongiorno da Nicoletta Carbone. Allora, se si deve fare un colloquio di lavoro bisogna mettersi un vestito buono, un vestito fortunato, come abbiamo sentito dal breve estratto del film Tu, io e Dupré. Ma forse andrebbe bene anche mettersi un bel paio di occhiali, un dettaglio che potrebbe fare la differenza, impressionare positivamente il nostro interlocutore. Insomma, più che alla stretta di mano decisa o al vestito fortunato, gli psicologi della Lancaster University sottolineano che gli occhiali fanno fare una bella impressione perché sarebbero sinonimo di intelligenza. Tenetene conto, noi penso che vi abbiamo dato una notizia buona per chi gli occhiali li deve mettere, o anche un suggerimento per chi magari vuole fare buona impressione, vuole avere un'aria più intelligente. Ai portatori di occhiali, a quelli che un tempo, almeno ai miei tempi, quando facevo l'elementare, si chiamavano quattro occhi, è dedicata la puntata di oggi. E partiamo subito da dei dati, perché chi porta gli occhiali spesso è un po', lasciatemelo dire, distratto? Vedremo. Il 66% degli italiani ha difetti visivi, il 53% porta occhiali correttivi, mentre il 17%, ossia una persona su quattro, non corregge il difetto. Inoltre, un italiano su cinque non si è mai sottoposto a un controllo oculistico e più del 60% non fa un esame da oltre 3 anni. La situazione è piuttosto allarmante se si pensa ai nostri bambini. Infatti in Italia il 40% degli alunni presenta un difetto visivo, ma non utilizza gli occhiali. Il 51,4% dei genitori non è attivo nei confronti della prevenzione oculare e 7 genitori su 10 ritengono le visite oculistiche non necessarie. È dunque opportuno sottoporre i bambini fin dall'infanzia a controlli mirati e presentare particolare attenzione ai loro comportamenti. Se un problema c'è, va individuato in tempo. Questa è la situazione fotografata dai dati della Commissione Difesa della Vista, presentata in occasione della passata giornata mondiale della vista. Allora oggi, se portate gli occhiali, degli occhiali invece volete liberarne, bene, se pensate che è arrivato il momento, perché con gli anni poi ci cadiamo tutti, prima o poi, insomma, l'incontro con le lenti è inevitabile, chiamateci subito 800 24 00 24. Parleremo dei controlli, ma non solo. I messaggi, come sempre, al 349 238 6666. In linea con noi abbiamo il dottor Pietro Rosetta, oculista, aiuto presso l'unità di oculistica dell'Istituto Clinico Humanitas di Rozzano, diretta dal professor Paolo Vinci Guerra. Buongiorno, dottore. Buongiorno, buongiorno a tutti. Insomma, la puntata di oggi vorremmo intitolarla "Noi che gli occhiali li portiamo e noi invece che gli occhiali li vorremmo buttare alle ortiche". Due modi diversi di vedere il difetto visivo. Iniziamo col dire che in presenza di un difetto visivo gli occhiali sono un ausilio fondamentale per garantire una buona visione, certo, per guidare, lavorare, leggere, tutte condizioni che elevano la nostra qualità di vita. Prendiamo per esempio come riferimento la guida, in questo caso conferiscono sicurezza a noi e agli altri. Quindi è fondamentale innanzitutto ricorrere a una visita specialistica per valutare l'acutezza visiva e soprattutto la salute oculare, perché spesso l'acutezza visiva dipende proprio da questa. spesso non ci si accorge di vedere male, a maggior ragione quando a non vedere bene un occhio solamente, certo, o il calo ha una progressione lenta, il discomfort visivo non viene avvertito, ma il paziente può percepire malessere, può percepire cefalea, condizioni che si possono risolvere solo con una visita adeguata. Dottore, c'è chi è miope e quindi non vede bene da lontano, o che al contrario, come i presbiti, hanno difficoltà a vedere da vicino, però ci sono altri difetti refrattivi e casi in cui ne è presente più di uno nella stessa persona, insomma la situazione si complica. Ci aiuti un po' lei a vederci più chiaro? Intanto invito i nostri ascoltatori a raccontarci qual è il loro disturbo visivo e se portano con disinvoltura gli occhiali, se hanno comfort oppure se vorrebbero abbandonarli, se sono passati alle lenti a contatto, se pensano che gli occhiali vadano un po' cambiati, la correzione riveduta, a chi si rivolgono. 800 24 00 24, dottore. Allora, iniziamo con il dire che il tema è decisamente complesso. L'occhio può essere paragonato a una macchina fotografica e i vizi di refrazione, come quelli più noti, miopia, ipermetropia o astigmatismo, possono dire che sono un problema di messa a fuoco di, sì, questa macchina fotografica. È essenziale individuare la causa della visione sfocata. Poi alcuni difetti sono presenti fin dalla nascita, altri, come spesso accade per la miopia, evolvono durante il conseguimento dell'età adulta. La presbiopia, come tutti sappiamo, arriva dopo i 40 anni. Che però non è un difetto, vero? Non la presbiopia perché è una perché sono una diventata presbite anch'io, quindi non vorrei no, la presbiopia è una condizione fisiopatologica, cioè dipende dalla perdita di elasticità del cristallino che non ci consente più di vedere a fuoco da vicino. Certo. Beh, diciamo che per la misurazione della vista abbiamo assistito ad una grande evoluzione. Un tempo gli oculisti disponevano di pochi strumenti, lo scioscopio e l'oftalmometro, dilatavano la pupilla e facevano una visita onesta. Oggi esistono strumenti che immediatamente ci danno un risultato, l'autorefrattometro è uno di questi, che ci danno certo una misura del difetto, ma spesso una misurazione imprecisa ed erronea. Allora bisogna fare qualcosa di più attento, qualcosa di più approfondito. Oggi disponiamo di topografi e aberrometri. Che nomi? Nomi difficili, ma che vi permettono di vederci più chiaro. Sì, perché permettono di studiare il sistema di lenti del nostro occhio, lente per lente, dalla cornea al cristallino, misurano il diametro della pupilla e ci danno anche indicazioni, per esempio, di carattere medico sull'innervazione della pupilla e su come essa risponde alla luce. Allora, eseguendo questo tipo di esame, possiamo definire l'origine del difetto riferirci esattamente a regolarità o irregolarità di queste lenti. È come se avessimo una, ripeto, la solita macchina fotografica con una lente che può essere più o meno regolare, e oggi possiamo scandagliare lente per lente avendo un risultato naturalmente molto più affidabile. Ci sono malattie che spesso andavano misdiagnosticate, come il teratocono, e oggi possono essere facilmente diagnosticate con questa metodica. Comunque noi adesso ci sono degli strumenti molto più raffinati e che ci permettono quindi di avere delle lenti che fanno proprio, sono su misura, cucite su misura come un abito su di noi, però insomma non è sempre facile trovare l'occhiale per noi, no? Perché anche se la scelta di un paio di occhiali sembra la soluzione per vederci meglio, non sempre c'è una risposta. Molte persone dicono: ho cambiato gli occhiali, ho messo gli occhiali, non mi trovo bene. Dottor Rosetta, perché questo disagio? Spesso questi pazienti sono incorsi in una valutazione un po' superficiale che non ha tenuto conto delle irregolarità che li rendono un po' diversi dal difetti ortodossi, e quindi solo questo tipo di esami cui facevo cenno, la barometria, la topografia, ci permettono di individuare e dare una netta connotazione al difetto e prendere le dovute contromisure. Poi vabbè, bisogna anche parlare un attimo della montatura, certo, perché ricordiamoci che il nostro lavoro non può che deve a una naturale poi con conseguenza nel lavoro degli ottici. Un occhiale troppo stretto segna le tempie, un occhiale troppo largo scende sul naso, e sono tutte condizioni naturalmente che peggiorano. E infatti dottor Rosetta, io l'ho tenuto qua accanto a me in silenzio e vedevo che seguiva ed era interessato, quindi dottor Rosetta, siamo andati bene, abbiamo Roberto Coppolino, ottico. Sì, buongiorno. A cui i nostri ascoltatori possono naturalmente rivolgere le loro domande. Tra l'altro, a proposito di montatura, leggevo oggi sulla Stampa un articolo di Sara Ricotta Bozza che racconta che adesso vanno di moda quest'anno gli occhiali tondi. E la montatura, ci diceva, al di là della forma, mi piacerebbe capire anche dai nostri ascoltatori quanto ricercano la montatura, quanto per loro sia importante. Il dottor Rosetta ci diceva che, insomma, la lente è importante, ma naturalmente deve essere sostenuta da una montatura che sia, che non ci stringa troppo, che non segni il naso. Quali sono le cose che dobbiamo seguire, fare attenzione per evitare, per capire se la montatura fa il caso nostro? Beh, la montatura certamente è la cosa principale, se vogliamo, dal punto di vista estetico. Chi sceglie la montatura la sceglie per un fatto estetico ed è normale, sta sul viso, quindi deve far parte un po' anche della tra del l'altro la montatura stile. Gli occhialini tondi sono un po' difficili, eh? Sono difficili, sì, nel senso che la scelta della forma va fatta, a mio parere, sì, seguendo la moda, però non tutti stanno bene con l'occhiale rotondo. Abbiamo tutti un volto diverso uno dall'altro, anche colori del viso, dei capelli diversi. E voi suggerite, oltre naturalmente il vostro lavoro di ottico, anche la montatura? È molto importante, naturalmente nel suggerirlo cerchiamo di coniugare quella che è la parte estetica, che è importantissima, sì, perché il cliente quello cerca, sì, e lo posso capire, con una parte invece poi tecnica, perché la forma della montatura è molto importante anche dal punto di vista tecnico, a seconda delle diottrie, del difetto visivo e anche e soprattutto dell'utilizzo che deve fare questa persona, perché a parità di diottrie c'è quello. Ma io come faccio a capire, perché io sono abbastanza nuova e li perdo in continuazione, poi chiederò al dottor Rosetta, io compro quelli, come si dice, quelli. No, sono andata dall'oculista. Sono andata dall'oculista, mi ha detto 1,5, allora dato che io li semino, tante volte non ce li ho, quando ne ho quello fatto bene dietro, li compro di qua e di là. Però quando io metto un paio di occhiali, cosa devo sentire? Come faccio a capire se, un po' come succede per la scarpa? Per la scarpa sembra più facile, no? Se non, certo, mi tocca da nessuna parte e poi neanche, perché poi magari camminando scopro che mi fa male. Ecco, mi aiuta. Aiuti a indossare un paio d'occhiali, a capire se la montatura va bene per me. Quando indossa il suo occhiale non deve certamente darle fastidio questo occhiale, è normale che sta sul viso, quindi si sente, però non deve, come diceva il dottor Rosetta, per esempio dare fastidio alle tempie, schiacciare, modificare magari lasciando dei segni sul volto, quindi anche lì si va su dove appoggia, sui pesi della montatura e delle lenti, perché anche loro hanno la loro parte. Certo. E soprattutto è importante affidarsi anche all'ottico nell'assettare bene questa montatura, cioè prendere un occhiale e metterlo su, il volto di ciascuno è diverso, certo, da quello degli altri, quindi va proprio posizionata in un certo modo e l'ottico la, diciamo, modella sul volto della persona. La persona non deve sentire fastidio, ecco, una volta messa su deve essere dietro le orecchie, certo, sulle tempie, sul naso. 800 24 00 24, noi e gli occhiali. Alessandro ci chiama da Roma, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutti. Io volevo porre una domanda al dottor Rosetta, perché, sì, ho mia figlia che ha 3 anni e mezzo, sì, e faccio una premessa, mia moglie è nata con la patologia dell'occhio pigro, sì, quindi ci siamo accorti che la bambina aveva, diciamo, una piccola, diciamo così, una piccola anomalia, l'abbiamo portata dall'oculista, l'ha visitata e ci ha detto bene, insomma, portatecela tra a 6 anni, in modo che così controlliamo. Volevo capire se questo è giusto, nel senso, sì, se i controlli così a distanza di tempo sono corretti. Dottor Rosetta. Ma dunque, iniziamo col dire che i bambini imparano a vedere esattamente come imparano a camminare e a parlare, sì, e quindi la funzione visiva va sviluppata. La presenza di un difetto, magari da una sola parte, penalizza quell'occhio e non consente a quell'occhio di imparare a vedere. Questa è l'ambliopia, o il cosiddetto occhio pigro. Condizione che diventa a carattere permanente se non viene corretta per tempo. Avrete sicuramente visto in giro bambini che vanno in giro con una bendina, sì, che chiude un occhio. Questo consente loro di utilizzare, di esercitare proprio l'occhio, che risulta difettoso e che deve recuperare il tempo perduto, per così dire. Perché si vede col cervello. Perché il cervello tiene conto delle immagini provenienti dai due occhi, quindi naturalmente questo è un aspetto fondamentale. Veniamo ai controlli. Nella telefonata di Alessandro si capiva un po' di dubbio, dice: come mai così distanziati nel tempo? Lei lo farebbe controllare con più frequenza? Dunque no, assolutamente, i controlli vanno eseguiti a 2 anni e mezzo, 3 di età, primo controllo. Sì. E poi addirittura io consiglio controlli annuali in assenza di sintomi, di difetti rilevati, proprio perché l'accrescimento può ingenerare l'insorgenza di difetti, anche semplicemente sulla base dell'ereditarietà, del codice genetico che i genitori ci hanno tramandato. Se esiste, come in questo caso, una familiarità, perché la mamma aveva un'ambliopia, è una ragione in più. Quindi io ritengo che sia più cauto e più corretto seguire il bambino annualmente, almeno. Voglio leggervi un messaggio, che così sfatiamo magari un luogo comune. È vero che è meglio non portare gli occhiali perché altrimenti gli occhi si impigriscono? Oppure vanno portati assolutamente perché sennò gli occhi si stancano e quindi la situazione si aggrava? Sicuramente questa domanda ve la siete sentite fare, soprattutto per chi magari diventa presbite, e allora c'è la tendenza a dire: no, dai, non mettere subito gli occhiali perché sennò poi sei legata. Dottor Rosetta, li mettiamo o no? Ma direi assolutamente di sì, perché gli occhiali ci danno qualità visiva. La miglior correzione possibile è quella che ci permette di guidare, di vedere, di leggere, e deve essere studiato bene il difetto, ma piuttosto io girerei al contrario la sua affermazione. Sì, il mio era un messaggio. Occhiali, dicevo, il non uso degli occhiali può essere invece dannoso, a parte perché è disconfortevole e toglie qualità, ma soprattutto perché ci sono difetti che possono, come dicevamo prima, il cervello controlla l'uso dei due occhi. Se un occhio non viene corretto, può anche andare in una posizione di riposo e quindi diventare strabico. Quindi, voglio dire, l'uso degli occhiali serve anche per mantenere in allenamento i due occhi e fare in modo che il cervello, che è un po' il regista, li controlli e ne prenda atto di entrambi. Ecco. Per chi porta gli occhiali, penso ai miopi ad esempio, ogni quanto bisogna fare il controllo e ogni quanto vanno magari riviste le lenti? Lo chiedo al nostro ottico. Beh, certamente il miope in particolare è comunque un soggetto che deve sempre tenere sotto controllo il suo occhio. Il dottor Rosetta certamente avrà anche uno scadenziario di queste visite. Noi stessi nei nostri negozi di ottica consigliamo alle persone di andare regolarmente dall'oculista, perché l'occhio miope è un occhio comunque che è sempre un po' delicato, da tenere sotto controllo. Adeguare l'occhiale quando? Tutte le volte che il medico oculista riscontra che c'è da modificare quelle che sono le diottrie, quindi il potere di questo occhiale. Oppure potrebbe anche essere una sorta di concepire l'occhiale un po' come un vestito, come una scarpa. Sì. Non abbiamo un vestito che usiamo per tutto o una scarpa che usiamo per tutto. C'è la scarpa da ginnastica, da sera, da casa, la ciabatta, quello che è. Anche chi è miope, quindi indossa dalla mattina fino alla sera il suo occhiale, potrebbe, perché no, valutare di avere diversi occhiali a seconda dell'attività che fa, se fa dello sport piuttosto che se deve guidare solamente, o magari leggere o altro, andare magari a una festa o al teatro. Sì, una bella spesa però. Sì, diciamo che può essere una spesa. Tenga conto però, il miope in effetti ha necessità di controlli un pochino più frequenti degli altri, ma tendenzialmente una volta assestata la sua miopia, finito lo sviluppo, fino a 40, 42, poi se riesce a tirare un pochino in là, quella è la sua diotria, è difficile che si modifichi. Non parleremo naturalmente solo di miopi, raccontateci il vostro difetto visivo, raccontateci come state con i vostri occhiali, come vi vedete anche con i vostri occhiali. Perché ci sono anche persone che degli occhiali non ne hanno bisogno, ma che li mettono proprio per vezzo. E non parlo solamente dell'importanza di mettere sempre gli occhiali da sole che ci proteggono. Abbiamo ancora forse un attimo di tempo per andare da Mario, che ci chiama da Roma, 800 24 00 24. Buongiorno. Buongiorno. Guardi, io sento questa trasmissione e rivedo tutta la mia vita. Io ho 64 anni e mi rendo conto di aver sempre vissuto con dei convincimenti che si sono poi rivelati tutti sbagliati. Cioè, da ragazzino mi avevano dato degli occhiali da ipermetrope dicendo che potevo vedere bene da lontano, quindi io con la storia che tanto vedevo bene da lontano non li mettevo a scuola, sì. Il che mi ha comportato dei problemi non indifferenti di attenzione, eccetera, eccetera, anche perché essendo alto mi mettevano sempre in fondo. E poi quando io ero sempre davanti, pensi Mario, non saremmo stati vicino a scuola. Però in fondo io poi vedevo male, insomma, praticamente facevo un grande sforzo per vedere la lavagna, per cui mi distraevo facilmente. Poi dopo, quando ho cominciato ad avere i miei 40 anni, ho cominciato ad avere i problemi da vicino, e però convinto che altrimenti avrei abituato male l'occhio, non l'ho messo per tanto tempo, quindi sforzandomi in maniera indecente e vivendo male, perché alla fine non leggevo manco più. Certo. Adesso ho doppi occhiali, sia da vicino che da lontano. Il terzo episodio è stato quando io continuavo a usare gli occhiali da lontano solo la sera, perché chiaramente ci vedevo poco la sera, e non mi rendevo conto che facevo dei sforzi inumani per guidare di giorno, finché un giorno, un lungo viaggio, ho avuto l'ispirazione, mi sono messo questi occhiali e sono arrivato fresco come una rosa a casa. Quindi tutto Mario, questo raccontavo la mia vita. No, ma io la ringrazio perché la telefonata di Mario ci dice non fate, ecco, io ho fatto così, voi fate altro. Grazie a Mario che ci ha chiamato da Roma, il dottor Rosetta sta con noi, il signor Coppolino l'ho blindato qui assolutamente in studio, voi continuate a chiamarci perché come sempre, proprio grazie alle vostre telefonate e alle vostre esperienze, Mario ci insegna, possiamo imparare a diventare protagonisti attivi della nostra salute e del benessere, che è un po' quello che cerchiamo di fare ogni giorno insieme a voi. Essere e benessere. Eccoci tornati di nuovo insieme finalmente. 800 24 00 24, se gli occhiali li portate, se volete non portarli più, se pensate che sia arrivato il momento di controllare la vista. Le primavere, lo sapete, portano spesso anche gli occhiali, e allora ci facciamo dire rapidamente dal dottor Rosetta i controlli. Voi oculisti insistete sempre, controllate la vista anche in assenza di sintomi. Io vorrei ricordarvi che gli occhi sono un organo di senso, e quindi la funzione visiva non è solo l'espressione della misurazione del difetto, ma dipende anche dalla buona salute della retina, del cristallino, la pressione oculare deve essere normale, quindi bisogna entrare in quest'ottica. Scusatemi, a proposito, essendo un oculista deve cioè controllare l'occhio perché questo sia in buona salute e poi verificare il difetto. Quindi quando si parlava prima dei controlli e della verifica del difetto, è vero che l'evoluzione del difetto varia a seconda della miopia, dell'astigmatismo, di altre patologie, ma bisogna ricordarsi che parliamo sempre di un organo vivo e che quindi può essere soggetto a delle malattie che vanno curate e vanno prevenute. Andiamo da Rita che ci chiama da Macerata. 800 24 00 24, approfittiamo per chiedere tutto delle lenti, parleremo di queste lenti progressive. I miei ascoltatori sono scatenati, c'è chi dice sono magnifiche, c'è chi dice mi danno mal di testa, insomma ne parleremo tra poco. Rita, buongiorno. Buongiorno, io porto delle lenti progressive, appunto. Come sta con le lenti progressive, si trova bene? Bene, sì, sono ormai diversi anni, io ho 59 anni, porto le lenti dai 45, però quelle progressive da un po' di meno. Insomma, ecco, che servono queste lenti progressive? Dunque, perché io sarei astigmatica e ora è subentrata la presbiopia. Quindi fanno vedere vicino e lontano. Vicino e lontano. Insomma, più o meno. Il signor Coppolino mi sta bacchettando. No, più o meno. C'è vicino, c'è lontano e ci sono anche quelle posizioni intermedie, il computer, non lo so. Invece Rita, lei ci ha chiamato per quale ragione? Per le lenti o per la montatura? No, è una domanda leggera la mia. Sì. A me sarebbero meglio, per dire, gli occhiali metallici, no? Perché sono più sottili, più luminosi, cioè le piace meglio. Di più. Sì, si però piace di più. I naselli mi segnano tantissimo, fino a ferirmi. E quindi sono costretta a prendere gli occhiali di celluloide. Certo. Che non mi stanno altrettanto Insomma, Rita, se venisse da lei, signor Coppolino, a lei piacciono quelli con la montatura di metallo, si vede più bella, bisogna anche vedersi bene per stare, certo, per essere contenti. Ecco, però ha questa cosa dei naselli, quindi il segno sul naso. Perché ha una montatura troppo stretta, pesante? Che cosa può fare? Che alternativa le offre? Beh, alternative ce ne sono, nel senso che innanzitutto bisogna vedere, per esempio, se le lenti, che poi sono quelle che fanno la maggior parte del peso dell'occhiale, sono magari quelle un pochino più leggere e sottili. Sì. Quindi anche agendo sulle lenti, sul loro diametro, sulla loro qualità, eccetera, si può ridurre molto il peso. Si può agire anche sugli stessi naselli, quelli che si appoggiano appunto sul naso, fare in modo che siano adeguatamente inclinati perché appoggiano in un certo modo, o usare dei materiali nei naselli che danno meno fastidio. Certo è, questo è indubbio, che la montatura in celluloide, quella in materiale plastico, distribuendo tutto il suo peso sul naso, alleggerisce. Sembra quasi un paradosso, sembra molto più pesante, ma non è così. E questo viene anche spesso utilizzato per i bimbi che hanno il naso molto delicato. La montatura in metallo, quindi, segna. Arita si suggerisce di, insieme al suo ottico, di provare queste certamente, vedere se variazioni, trovare se le no. lenti più sottili. Può essere anche molto delicata, Arita, quindi è un caso anche un po' estremo, ma si risolve. Però abbiamo già capito che la montatura di cellulosa sembra all'apparenza più grossa, in realtà è più leggera da portare. È più leggera perché distribuisce il suo peso sul naso. Poi esistono montature comunque in metallo molto leggere, perché poi esistono dei materiali tipo il titanio, piuttosto, che sono così leggeri che sono veramente qualche grammo e non influiscono assolutamente. Agirei più sulle lenti, ecco. Certo. Perché e a proposito di lenti, dottor Rosetta, queste progressive? Ma le lenti progressive sono un'ottima soluzione quando il cliente o il paziente deve cercare una soluzione versatile, cioè deve avere una lente per tutte le situazioni, perché muovendo l'occhio va a cercare il punto della lente graduato per la distanza desiderata. Avrete capito però che questo ha anche degli inconvenienti, che ci sono situazioni in cui bisogna muovere il capo e non gli occhi, per esempio quando ci si muove in macchina o si deve fare retromarcia, è il caso proprio limite, perché se no si andrebbe a guardare attraverso una porzione di lente graduata per la distanza che non è quella desiderata. Allora, quello che è il messaggio che deve passare, secondo me, è che bisogna prima capire quali sono le esigenze del paziente. C'è un paziente che ha bisogno, perché risolve il problema con un occhiale solo. C'è il paziente che, non so, di professione ripara orologi e lavora sempre da vicino, sarà in difficoltà con un occhiale multifocale, sarà meglio per lui una lente monofocale per la distanza a cui lavora tutta la giornata. Si parla anche di occhiali, quelli che un tempo venivano chiamati gli occhiali da riposo, da televisione, da lettura. Adesso molti di noi lavorano davanti allo schermo del computer. Dottor Rosetta, lei come oculista, quali indicazioni dà? Parliamo di una persona che ha già magari un disturbo visivo corretto con degli occhiali. È giusto che alterni, se lavora davanti al PC, con un altro paio di occhiali, e insomma deve portarsi dietro un carretto. Normalmente la distanza, chi lavora al computer deve avere la correzione adeguata alla distanza a cui lavora, che normalmente si aggira sui 40 centimetri. Bisogna stare un po' attenti però ai sintomi che vengono spesso riferiti quando si lavora al terminale. Bisogna ricordarsi che quando si lavora al terminale si sbattono di meno gli occhi, diminuisce la frequenza di ammiccamento, quindi si asciugano gli occhi, danno una sensazione di secchezza. Bisogna ricordarsi che noi cerchiamo sempre di andare a fuoco, perché il nostro occhio ha un potere di risoluzione molto più elevato di quello della maggior parte dei terminali oggi in commercio, e quindi si fa uno sforzo costante di messa a fuoco che andrebbe corretto scegliendo un terminale con la più alta risoluzione possibile. Quindi io sono d'accordo nel consigliare la correzione migliore per usare il terminale, ma bisogna anche stare attenti a tutto quello che ci sta intorno, a tutti gli aspetti correlati che vanno corretti. Se l'occhio è asciutto bisogna magari usare dei sostituti lacrimali che permettono a chi lavora di non avere gli occhi secchi, e poi non bisogna stare troppe ore al terminale. Ma questo sì, è questo, sa, però. signor Rosetta, dottor Rosetta, uno può stare se lavora davanti al computer e magari passa delle ore, ricordiamoci però ogni tanto di ammiccare, no? Perché questo è importante. Facciamo una sorta di ginnastica oculare. Adesso mi picchiate perché è un termine che so che non vi piace molto, ma io vado da Generoso, ci chiama da Caserta, ma benvenuto. Salve, beh, è un piacere sentire la tua voce, è taumaturgica. Vedi, allora è una voce che fa star bene solo a sentirla parlare. Grazie, Generoso di nome di fatto, insomma. Ci racconti. Volevo parlare di un problema che non viene quasi mai affrontato. Io, nonostante la mia non più giovane età, comunque ho 61 anni, mi piace andare in moto, mi piace andare in macchina, faccio chilometri, anche 60.000 chilometri l'anno. Sì, quindi... Quindi il mio problema è un problema di cui non ne avete mai parlato, è quello lì della quantità di luce. Quantità di luce, perché? Io ho un problema sia a leggere e sia a guidare di notte atroce. Essere e benessere. Dottor Rosetta, quando la luce ci sembra sempre non sufficiente per illuminare quello che stiamo facendo, che cosa vuol dire? Che cosa dobbiamo fare? Cambiamo lampadina o andiamo a darci una controllata? Naturalmente per vedere bene l'importante è avere una buona quantità di luce, sì. Però bisogna anche ricordarci che la variazione della quantità di luce modifica il diametro della pupilla e gli aberrometri, quello nome complicato per dire gli strumenti che utilizziamo oggi, ci hanno dimostrato come essendo interessata una superficie differente delle lenti che compongono l'occhio a seconda delle condizioni di luce cambia completamente il modo di vedere, quindi bisogna capire bene qual è la patologia, quali sono le condizioni che riducono la visione. In cui ci sono patologie come il glaucoma, per esempio, che riduce la sensibilità alla luce e quindi di notte il paziente in questa condizione sarà molto penalizzato. Dottore, quindi il consiglio è: se la luce vi sembra inadeguata, andate dall'oculista che ha degli strumenti specifici adeguati per misurare la vostra vista e capire la causa di questa difficoltà, è così? Assolutamente sì, perché si possono escludere tutte le patologie che potrebbero determinare questo tipo di malessere e poi prescrivere una correzione adeguata. Quindi, a proposito di controlli, voglio ricordarvi che è iniziata ieri a Milano la settimana del Mido, che è la mostra internazionale di ottica, optometria, oftalmologia a Fiera Milano, e c'è questa bella iniziativa presso la zona arrivi del Terminal 1 dell'aeroporto di Malpensa. C'è la possibilità di sottoporsi a rapidi e gratuiti screening visivi e della salute dell'occhio. Inoltre vi ricordo che parte da domenica 6 marzo a sabato 12 la settimana dedicata alla patologia a cui faceva riferimento il dottor Rosetta, che è il glaucoma. Ci sono delle iniziative gratuite in 45 città, in 20 si effettueranno check-up oculistici gratuiti grazie proprio all'Agenzia invece internazionale prevenzione per la cecità, di cui vi rimando al sito www.iapb.it oppure al numero verde 800 068506. Abbiamo fino adesso sottolineato l'importanza dei controlli, perché chi non vede bene riesce con gli occhiali ad avere una qualità della vista migliore e quindi a stare meglio, ma c'è chi invece gli occhiali li mette un po' per vezzo, li usano ad esempio, si usano anche come accessorio di eleganza, ne fanno uso modelle, personaggi televisivi, VIP, c'è chi li colleziona, ma di un colore in particolare. Ah, va bene, Generino. Se si mette a fare della polemica, allora mi ha messo a posto, scusi. Ma perché tu vuoi fidarmi di lei, eh? Lei mi ha fatto perdere per mare, ha fatto rompere il motore, non sa le rotte, per maloso come tutto il meridionale approssimativo, perché dovrei fidarmi come se fosse svizzero, eh? No, vabbè, basta, guardi, Lasci perdere, tanto sei capito. Lei è negato. Inutile cavare acqua dalle rape. Che ha detto? Ma niente, niente. No. Io desidero sapere che cosa ha detto. Ma che cos'è questo? Ah, il tono minaccioso adesso. Ho detto che è inutile cavare acqua dalle rape. E in linea con noi abbiamo il piacere di avere Lina Wertmüller. Buongiorno. Buongiorno a voi. Ma come sono contenta. Grazie. Senta, ma lei quanti occhiali ha? Perché ho letto cifre diverse su internet. Chi dice 3.000, chi dice più di 5.000. Quanti ne ha? Non me lo ricordo neanche io. Comunque tanti anni. Senta, ma com'è avvenuto questo incontro? Perché girano con gli occhiali? Sì, bianchi. Tu. Una volta mi fece un paio di occhiali bianchi, io mi accorsi che erano carini, leggeri, balneari, avevano un'aria estiva. E allora andai in una fabbrica e dissi, vorrei dire, al minimo 5.000, e dicevo, va bene, me ne faccio 5.000. Veramente. E da allora, eccoci qua, un matrimonio. Un matrimonio. Ho letto che... Tra l'altro io lo vedo oramai benissimo, però... da lontano mi sono fatta, come si dice, l'intervento, la scorticata eccetera, vedo bene, quindi faccio parte di quelli che li portano, perché oramai hanno attaccato il viso a quegli occhiali. Lei appena si alza al mattino li mette? Sì, sì, è proprio... fanno parte oramai della mia sì. toilette. E che toilette? Sai che ho letto che si è conclusa nei giorni proprio scorsi al Museo dell'Occhiale una mostra intitolata Al primo sguardo, storie d'amore tra occhiali e cinema. E allora mi chiedevo, volevo chiedere a lei, che è una grande regista, il mettere l'utilizzo degli occhiali. Se lei ad un attore mette gli occhiali, insomma, non è una scelta che si fa per caso e non è una scelta un po' neutra, no? Perché la presenza dell'occhiale o no magari serve per sottolineare un personaggio, o sbaglio? Beh, certo, non ci sono mica regole fisse, che sciocchezze. Dipende dal personaggio, dalla storia, dalla funzione, dal regista, dalla faccia dell'attore, da tante cose. Senta, a proposito di cinema, è vero che ci sarà il sequel di Travolti? Sì. Io penso, spero, ma... mi auguro di sì. Incrociamo le dita, ma siamo quasi per il sì. Quanto ci manca per un sì Bella, definitivo? Lei cerca, come si dice, cerca rogna. No, io porto cerca buono rogna, invece. Non bisogna parlare dei progetti, mai. Dato non che porta bene. Ma vedrà che noi portiamo bene. L'abbiamo letto sulle news. Lei si affidi a me, signora Wertmüller, io sono una sua fan veramente appassionata troppo buona. Io l'aspetto qua e vedrà che le porto buono. Intanto grazie per essere stata con noi, buonissima giornata. Altrettanto a lei. Buona giornata anche al dottor Rosetta, che ci ha aiutato a scegliere, a capire qualcosa di più dei nostri occhi, della salute dei nostri occhi e delle lenti, al nostro ottico che è qui con noi, grazie che ci ha aiutato, grazie, ci ha svelato anche i segreti della montatura. Io vi saluto, vi do appuntamento come sempre a domani, dopo il GR delle 11. Buona giornata. Essere e benessere.